Buonasera, è Altofest Napoli 2022. Ci troviamo nella casa della donatrice Giovanna Francese, nel centro antico di Napoli, nella zona universitaria, vicino la famosa via Mezzocannone, e ci troviamo in compagnia dell'artista Giorgia Lolli. Questa è la voce di Pippo Pirozzi e poi Marina Calzignato. Giorgia Lolli è una danzatrice e autrice italiana con esperienza internazionale, ha progetti come freelance in Italia e all'estero. E a Giorgia faremo delle domande per la rubrica Intravista Casa in Risonanza. Buonasera Giorgia, sono Marina e a te la prima domanda. In poche parole, potresti descriverci questa casa? Sì, ciao, buonasera, siamo a casa di Giovanna, è una casa al quarto piano, un open space molto ampio, accogliente, vibrante, coloratissimo, principalmente blu e giallo, secondo me, e è pieno dei ricordi della vita di Giovanna, che è una ragazza appassionata di basket. Bene, ed entrando nella casa hai visto, hai trovato qualcosa che ti ha colpito particolarmente, che ha risuonato in te? Sì, mi sono molto appassionata del contrasto tra i colori, ho trovato tre paperelle di gomma con una grande attenzione al dettaglio perché ci sono veramente tante cose in questa casa, di cui una appunto la palla da basket e ho trovato una grande intenzione nel ripetere il numero 3 in questa casa. Grazie Giorgia. E questo in relazione al tuo lavoro, diciamo, c'è stato in relazione a quello che ci hai già detto, in relazione al tuo lavoro, c'è stato a primo impatto qualche aspetto in particolare che ti ha di nuovo colpito, legato in particolare al tuo lavoro? Sì, innanzitutto appunto il numero 3 è una cosa che mi interessa molto, perché originariamente Eufemia è un lavoro pensato per tre interpreti, in cui sono in scena con altre due danzatrici, e in questo momento sono invece in casa con altre due ragazze, e quindi c'è questa dimensione dello stare insieme, del vivere insieme, ancora nel numero 3 e nel rapporto, nei rapporti che si vanno a creare. E l'altra cosa che appunto ho trovato a primo impatto entrando in casa è quest'aria di una dimensione protetta, intima. Sì, Che è vicina o aiuta per il tuo lavoro, per il lavoro che devi perché costruire. Eufemia è un lavoro in cui c'è bisogno un po' di questo raccoglimento e sicuramente entrando in casa vorrei riportare lo spettatore in questa dimensione del privato, quindi appunto vorrei cercare di fare un percorso per portare lo spettatore all'interno il più possibile, diciamo, di questo spazio e della vita che lo attraversa. Un'ultima domanda, tu Giovanna l'hai appena conosciuta, no? Ora ti sentiresti di raccontarci la persona che vive qui, avendo osservato la casa? Sì, io ho conosciuto Giovanna ieri e mi è subito sembrata una persona molto dinamica, che ha tanta voglia di mettersi in gioco, di mettersi alla prova e con una grande voglia di sperimentare, sia ovviamente vabbè, accogliendo un artista nella propria casa e lasciandomi completa libertà, cioè il primo giorno mi diceva sposta quello che vuoi, sposta il divano. È una persona che secondo me è piena di sorprese e non vedo l'ora di scoprire con lei Conoscerla meglio. in questa settimana e Quindi sperimentare insieme. Non posso dire tutto, però No, però sennò. dico, trovi un legame tra la casa e la persona. Sì, assolutamente. No, la casa di Giovanna è Giovanna. Va bene, grazie. Grazie. Grazie a voi.